24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Impiegheremo ancora più tempo a capire quello che succederà, cari italiani, cari cittadini. Altro che tacchini, qua ci accontenteremo di un governo, insomma, di capire come finirà questa situazione di stallo in cui io sto facendo i conti ancora 152 senatori, 59, 120, non si capisce come si comporrà una maggioranza al Senato. Comunque, buongiorno a tutti, siamo insieme fino alle 9, vi ricordo il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666, anche perché da lunedì dobbiamo cambiare l'insegna del nostro bar condicio, che non ha più senso d'essere così, bar condicio, però apriamolo oggi per l'ultimo giorno, bar condicio. Allora diteci come si dovrà chiamare il caffè volentieri a tutti quanti. Questo bar dove Nicole Minetti è l'unica certezza che continuerà a offrire caffè. E voglio salutare Luisella Costamagna. Buongiorno Luisella, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. Questa è l'unica certezza che rimane, Nicole Minetti che ci offre il caffè. Se hai tu un'idea di come cambiare bar condicio, ci hanno detto di tutto, bara, baratro, barlume. Baratro è carino. Beh, insomma, è carino. Uno va ad avere un bel cappuccio al baratro. Vabbè. Una fotografia del reale. Chissà, insomma. Magari Vincino, buongiorno. Hai un'idea da darci subito sul nostro? Quello è me, mette allegria al baratro. È bellissimo. Baratro. Per ora, guardate che è in pole position Barlamento. Questo potremmo chiamarlo così, Barlamento. Allora, la prima considerazione che ho fatto oggi leggendo i giornali, attenzione, c'è un'intervista a Bersani, tra poco vi dico cosa ha detto. C'è una dichiarazione di Renzi, pare che Renzi abbia detto al Corriere: se vanno alle consultazioni e propongono anche il mio nome per fare il premier, io sarei disponibile. Vincino, sei contento? Tutta l'Italia aspetta questa cosa. Ma sì, e lui che, infatti ieri l'avevo disegnato, lui stava tutto il giorno allo specchio a guardarsi di qua di là, ma quando mi chiamano, ma eccomi a provarsi i vestiti, è il suo momento, che è il Papa. Luisella, finirà così, ci vorrebbe Renzi. Vabbè, sarebbe incredibile che vanno alle consultazioni e dicono: sì, ce l'abbiamo il nome del premier, è Matteo Renzi. Sarebbe una follia, cioè voglio dire, ci sono state delle primarie, tra l'altro Renzi si è comportato, secondo me, benissimo da quando ha perso le primarie. Per cui gli ha fatto benissimo, insomma, questa sconfitta alle primarie. Però adesso, francamente, dal cappello esca fuori Renzi come possibile premier, mi sembra una follia. Ma perché no? Ma intanto è già successa una follia. Ma alle elezioni è cambiato tutto il mondo in due giorni, almeno il mondo politico in Italia. Per me sarebbe una cosa geniale. Bersani è fuori gioco perché è caduto dal tetto lui. A cercare i tacchini, sì, per cui o Grillo o Renzi, non abbiamo alternative. Berlusconi, poveretto, là è ancora inguaiato, e quindi non è. O se no, che ne so, la Costamagna o io, anche tu. Facciamo... Se mi chiamano ci sto, infatti. È possibile qualunque cosa. C'è anche un altro posto vacante, che è quello di Papa, ma ieri il Papa ha detto ai cardinali: tra di voi c'è il nuovo Papa. Io ho detto no, perché sai, Vincino, potevamo essere eletti anche io e te. La Costamagna no, perché è donna, quindi va bene tutto, ma il Papa donna. Non siamo ancora pronti, no. Però davvero senza Papa, senza governo, senza capo della polizia, siamo in una situazione che sta male, davvero, da baratro. Sì. E tra poco pure il Quirinale, certo. Un sacco di sede vacanti, tutta Roma è proprio tutta gente che c'è. Sarà la ripresa. Il gioco della sedia, sapete, quello che la gente si siede e poi ne manca uno che rimane in piedi. Allora, intanto vi voglio far ascoltare Beppe Grillo alla BBC. Ha parlato, parla solo con i giornali stranieri, cioè le interviste solo con gli stranieri. Alla BBC, sentite cosa ha detto, Succederà quello che è successo prima: destra e sinistra si mettono insieme e governano un paese di macerie di cui sono i responsabili. Durerà un anno? Uno, massimo. Poi di nuove elezioni, e di nuove elezioni movimento, cambierà il mondo. Questa è già una rivoluzione, è già cominciata, non si ferma più. Non l'ho voluta io. Luisella, non si ferma più. Cioè, noi siamo ancora ancorati ai vecchi schemi. Ieri in un'intervista a Massimo D'Alema sul Corriere della Sera. Cioè, invece lui è lì. Governate. Poi tra 6 mesi facciamo la rivoluzione, prendiamo tutto. Finirà così. No, con un D'Alema che ha detto, me lo sono segnato, non è stata colta la drammaticità della frattura tra cittadini e sistema politico. Sì. Davvero un'inconsapevolezza preoccupante. Infatti. Non è stata ancora colta e, insomma, è devastante. È devastante, sì. Vincino però, Veltroni non l'ho sentito. Veltroni come no. Aspettiamo Veltroni. Sarà in Africa, non lo so. D'Alema ha avuto un gran coraggio, però ecco, il Corriere, una pagina intera. Però Vincino, te lo voglio far sentire anche in audio, così proprio la giornata ti inizia bene, di Massimo D'Alema, proprio anche la voce di Massimo D'Alema, sentite. Grillo si illude di spingerci verso un governissimo con Berlusconi, perché pensa così di averne un vantaggio, si illude, noi non lo faremo mai, sarebbe l'errore più grave, i vecchi partiti che si alleano per chiudersi di fronte al nuovo. Se Grillo vuole che la legislatura vada avanti, deve prendersi una parte di responsabilità, altrimenti sarà responsabile di nuove elezioni. Vincino, fa la voce, fa la voce forte, dice, non si illuda, Beppe Grillo. Hanno detto le stesse cose, tra un anno, poi là, preciso, identico, ma non andrà così, D'Alema ha sempre sbagliato, per cui quindi c'è qualcosa che può succedere, non è che... Grillo, che la vede così matematicamente dritta, pure lui prenderà una tramvata, secondo me, perché non funziona così la politica. No, infatti, se Grillo dice si va a votare tra 3 mesi, secondo me molti di quelli che hanno votato Grillo dicono no, adesso che dovevi governare, adesso non te lo ridiamo più il voto, quindi non è così automatico, assolutamente, il ragionamento di Grillo. Assolutamente, abbiamo da divertirci un sacco, e poi questa bell'aria senza governo, senza governo. Stupendo, bello. Eccolo lì, Luisella. Vincino è della teoria: nessuno governa, nessuno fa danni. Questa è... Ma è un momento in cui veramente tutti alzano il prezzo, tutti mollano tutti e tutti ripassano il pallino nel campo dell'avversario. Dopodiché, che il Partito Democratico in questo momento offra un'agenda sulla quale peraltro Grillo potrebbe anche trovarsi d'accordo, però sono tutti punti di cui non ha mai parlato in campagna elettorale, perché durante la campagna elettorale non ha parlato nettamente della legge sul conflitto di interessi, del taglio del numero dei parlamentari, dei costi della politica, della legge elettorale, delle spese militari che peraltro ha votato allegramente. Ma adesso pare che tutto questo ci sia, perché arriva l'intervista che Bersani fa a Repubblica, il titolo di Repubblica di prima pagina: il mio piano per governare, chiamatelo come volete, governo di minoranza, governo di scopo, non mi interessa, ma lo proporrò mercoledì prossimo alla direzione del partito. Ecco, sempre perché governo di scopo lo può dire solo lui, però. No, infatti al governo di scopo, tra l'altro, io lo continuo a dire. Berlusconi ha detto governo di scopo mi piace, è già l'idea governo di scopo mi piace, la O era un po' più chiusa. Comunque, il mio piano è questo: pronti 8 punti, taglio dei parlamentari, dimezzamento dei parlamentari, tagliare lo stipendio, insomma fare le cose di Grillo e poi chiedere a tutti la fiducia, cioè chi c'è. Questo è il piano di Bersani. Ma non avevano loro un piano per risollevare l'economia appena eletti nei primi 100 giorni, via, ma poi nell'intervista lo dice: il lavoro è la priorità, bisogna rilanciare il lavoro, la questione sociale, eccetera. Insomma, però sono questi effettivamente i punti sui quali può trovare una convergenza, visto che non vuole fare il governissimo, almeno a parole, infatti, con il PDL, ma per trovarla con Grillo. Ma infatti io sono 3 giorni che dico... Cercare una convergenza con Grillo, capito fino adesso il boom, adesso però ce l'hanno di fronte, è bene trovare punti di contatto. Ma infatti io sono 3 giorni che dico che questa può essere una grande opportunità, cioè in questa confusione, perché c'è confusione, potrebbe invece nascere un governo che fa quelle cose, perché è costretto dai numeri a farle, magari, tanto arrivano le proposte per il nostro bar Collanti. Ci impiegano 90 giorni a tagliare il numero dei parlamentari, anche non meno se voglio 90 giorni, Barcellona, che ne pensate di Barcellona? Vabbè, questo me l'hanno scritto perché io tengo al Milan. Barbatrucco, Baraculi, anche se si potrebbe anche fare così, Vincino. Bargamella, ci suggeriscono. Barsani. Baratto. baratto, baratto. Sì, vabbè, siamo bar vacante, insomma, bar la zappa per il nostro contadino di Terni. Però è questo, allora, avete visto i redditi dei parlamentari? Sono usciti i redditi dei parlamentari. Vabbè, Berlusconi è quello che guadagna di più, 35 milioni, poi c'è Monti. Vabbè, pare abbia speso anche 3 milioni per comprare De Gregorio. E adesso ci arriviamo. Capacità economica, non ci sono dubbi. Ecco, subito, Luisella Costamagna, la giustizialista, subito, saranno tutti in piazza anche contro di te, anche contro di te. Povero De Gregori era là così, è stato lui che l'ha comprato e cos'altro, e lui era ingenuo là, sì. l'unico senatore dell'Italia dei Valori, e povero Di Pietro, aveva un senatore solo nel 2006, appena arriva, gli arrivavano le valigette addosso di soldi, non sapeva più come spostarsi. E se a Grillo succede pure questo? Lo scilipotizzano, come dice lui, lo scilipotizzano. Io sono un deputato grillino, no, mi succede una disgrazia a casa, sì. Ho bisogno, per cui 2500 euro non mi bastano più, e che faccio? Mi faccio comprare, dice, mi faccio comprare, passo al PD, automaticamente il mio stipendio passa a 10.000 euro. Ah, potrebbe essere, è un, come dire, uno cambia azienda e è un autoacquisto praticamente. Certo, uno cambia azienda e lo stipendio quadruplica magari. Allora, comunque avete visto una caratteristica di tutti i redditi, segnalata da tutti i giornali, è che i politici non comprano più bot, Cioè, se non si fidano neanche loro dello Stato, no? Perché dovremmo fidarci noi? Niente, tutte case, terreni, il mattone, i bot, via, tutti scomparsi. Nessuno che compra i titoli dello Stato, Un bel segnale, Luisella. Davvero, no? Davvero. No, ma questo è indicativo, è uno specchio impressionante. Insomma, però... cioè, nessuno che compra i bot. Vincino, ha i bot? No, io c'ho un bot, ma non proprio totale zero. Guarda. Hai cambiato la banca, il Monte Paschi? Che no, il Monte, ho avuto una discussione al Monte dei Paschi pazzesco, guarda, perché so, per 1.000 euro che ero fuori, no, io ho detto, pensate ai vostri 7 miliardi. Appunto, e che ti hanno detto? Che ti hanno... Ah, ma come ci permette? Come voi c'entrate? Ti dormono sullo zerbino. Mi hanno dato un altro mese, mi hanno prorogato di un mese. Un mese per rientrare di 1.000 euro? Facciamo una colletta per Vincino, perché se no andai, vai. Ma davvero? Perché non sei candidato, Vincino? Ma secondo me, non lo so. Hai ricevuto candidature, Vincino? Richieste di candidature, Vincino, ne hai avuto? Ah sì, solo dei radicali, sempre solo dei radicali. Quelli che sono rimasti fuori. No. Quelli che sono rimasti fuori. Ma chi l'avrebbe voluto? Significa uno essere sospeso dal Corriere per 3 mesi, sicuramente. No, Luisella vorrebbe sapere, ma tu con chi ti candideresti? Cioè, tu se avessi un sogno, una richiesta, cioè con chi vorresti essere candidato? Sì. Io? Guarda, con i radicali senza pannella, senza cose, quell'altro, con i radicali però di quelli che... Me radicali liberi, i radicali, con i radicali liberi. La mia disgrazia, guarda, non avevo nessuno che votare questa volta qua, di nessun genere. Ah, ma appunto non te l'ho chiesto, ma sei andata a votare? Sei andata a votare? Sì, radicale. Radicali, alla fine non abbiamo preso niente. Un disastro. 24 mattino. Se per caso dovessero affidare qualche incarico istituzionale al sorcio socialista che prende già 31.000 euro al mese di pensione e che per di più la RAI gli ha affidato un programma, vuol dire che non hanno e non abbiamo capito niente. Ciao Milan, sono Barbara. Volevo dirti che io sceglierei proprio Cacciari come Presidente della Repubblica. Cacciari for President. Grillini, siete in trappola. Bessoni e Company già l'hanno costruita. O agite da cavallette o diventate bestioline festose che saltano, beccano sui prati. Vi agitate, siete sempre in convulsione. Si capisce, volete mangiare mentre gli altri hanno già mangiato. Alessà, io sono di sinistra, ho votato naturalmente Bersani. Se però si allea con Berlusconi e non con Grillo, io voterò Grillo la prossima volta. Ti saluto, Alessandro. Allora, c'è Renzi che è seduto sull'Arno. Speriamo che non aspetti troppo però, eh? Intanto, magari fra 10 giorni avremo Amato. Ma tu guarda un po' chi c'è di nuovo. Amato! Stavolta quanto ci prenderà dal conto corrente? Di nuovo il 6 per 1000 o il 6 per 100? Ma vedremo. Bersani a casa! Italia sta a due clown come Germania sta a Hitler. Adesso questi tedeschi del cazzo, cosa rompono i coglioni? Berlusconi pur di governare si allierebbe anche con Bersani. Mannaggia miseria. Fatti un regalo. Ve la ricordate questa storica? Vincino se la ricorderà sicuramente. Comprami! Che era? Viola Valentino. Viola Valentino. L'abbiamo messa per questa inchiestuccia su... Ma De Gregorio che dice... Amato è molto amato qua da voi. Sì, sì, amato. No, da noi questa è la voce del popolo. Ma senti, lo Zappatore non c'è oggi. Ma guarda, lo Zappatore è un dramma. Cioè, il nipote, che è l'unico nostro contatto con lo Zappatore, ci ha detto che è stato isolato dal mondo, dal suo piccolo paese. Non lo fanno più giocare a carte. Ha detto per favore non... Cioè, lui è andato contro la nomenclatura rossa lì del suo paese, che da 40 anni. E da allora non... È un reietto del paese, così ci dicono. È disperato. Sono duri in Umbria, è vero. Sono duri, ma fate qualcosa. Ma per favore, ma venite qui a spiegarci sta cosa. Ma com'è possibile che lo trattate così? Tra poco lo mettiamo comunque lo Zappatore di Terni. Comunque, sta roba di 3 milioni di euro. Ma Luisella, ma è davvero così? Sì. Non lo so, ho letto. Insomma, De Gregorio lo dice. Però. De Gregorio dice così. Che De Gregorio abbia parlato di 3 sì, euro, ma se qualcuno dice che forse nero. Sì, ma forse qualcuno dice che siccome voleva essere ricandidato adesso si sta vendicando, vai a saperlo. Entreremo, non è cambiato più niente, non cambia niente. Però voglio dire, è una cosa sulla quale non c'è davvero niente da ridere, perché è una cosa pesantissima. No, ma certo, cioè, che è pesantissima, ma non cambia niente. Adesso Berlusconi dice andremo in piazza contro i magistrati, ma basta, ma che andiamo avanti, ma io non lo basta, so. Il film Lincoln l'avete visto? C'è tutto un percorso ostacoli. No, cioè, che c'entra Lincoln? Lincoln, perché guardate il film Lincoln, non e scoprite che Lincoln, per fare passare la legge contro la schiavitù, ha dovuto comprarsi praticamente 20 deputati e quindi va bene. Prendo o una cosa uno, o una presidenza un altro, ed era Lincoln, no? E quindi... La politica è questa, come dire, non è Catilina, Lincoln, Berlusconi. Luisella, Vincino è così, non... Lo so, però, insomma, sono cose serie e pesanti, cioè, era per far cadere il governo Prodi. No, ma questo è il 2006, il governo Prodi cade 2 anni dopo. No, come? Allora? Ho capito. Non è che, come dire, la politica è sempre stata questa, vieni di qua, ma vai non di là. Ma non è vero, ci sono state compravendite di questo tipo. Luisella è sdegnata, Vincino, la tua... Assolutamente. È sdegnata. Che si fa? Si comprano con le valigette di soldi i senatori? Dai. Vabbè, no, se io fui un posto da in qualche che è la stessa 2010. Cosa. Io fui un posto in commissione, quello passa all'aereo. Cioè, come dire, non è che... Io non lo so, io per quello che so della politica, cioè anche Moro aveva dietro freato con la borsa, ed era Moro. Quindi insomma, Luisella è così. È la politica. È la politica. Ma no, non ho mai sopportato queste generalizzazioni e chiamate incorreità, per cui in fondo il mondo va così. Non dovrebbe andare così, e nel momento in cui si scopre qualcosa è giusto perseguire dei reati pesantissimi. Uno dei principali rappresentanti che esce da queste elezioni si è indagato per corruzione e acquisto di deputati o senatori, è una cosa grave. Vabbè. È bello chiudere con questa disfida. Cioè, con questa nota con questa disfida, abbassare un attimo la serranda. Vincino e Luisella Costamagna, io mi devo fermare. Vincino, io avevo proposto sequestriamogli il Papa tedesco almeno a sti tedeschi, invece no, l'abbiamo fatto andare via in elicottero. Ma che sta là a Castel Gandolfo? L'elicottero però l'abbiamo messo noi italiani. Eccolo là. Cioè, con tutti i soldi che avevano, ma manco un elicottero potevo comprarsi dalla Augusta. Dall'Augusta. Come dire, che, cioè, Orsi invece di andare a comprarsi quelli là in India, hanno gli vedeva niente, Vaticano, aveva pure cotti tedeschi. È straordinaria chiusura di Mincino. Adesso siamo con la schiena dritta, dei tedeschi. Certo, non gli abbiamo sequestrato il Papa. Niente, vi ringrazio, andiamo a sentire il giornale radio delle 7, ci risentiamo subito dopo per la rassegna stampa. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E a cena una minestra scunnita. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Le 7:18 minuti, eccoci cari ascoltatori pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo ancora di questa situazione di stallo, ci concentreremo anche sui rimborsi elettorali, anche lì oggi su Libero Maurizio Belpietro scrive un editoriale a dire: partiti, avete un'occasione, rinunciate tutti ai rimborsi elettorali, lo fa solo per il momento, come da loro proclama il Movimento 5 Stelle. E anche da lì si vede che insomma le cose possono cambiare o non cambiare. Ne parleremo alle 8:30 per cercare di capire, sempre sullo sfondo, come si uscirà da questa situazione davvero di stallo, di impasse. Avremo ospite anche alle 8:15 il rettore dell'Università di Genova, dove ieri ne parlavamo, è stato deciso che mogli e mariti non possono lavorare nello stesso dipartimento. Una mossa contro il nepotismo o una mossa così un po' una butade demagogica? Ne parleremo alle 8:15 con lui direttamente. Ora i giornali in edicola. In questo venerdì 1 marzo, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sui 13 numeri dell'emergenza Italia. Questo è il titolo di prima pagina. La manifattura è ora il cuore della crisi. E poi la situazione politica. Repubblica intervista Pierluigi Bersani. È la prima volta che parla in una lunga intervista. Il mio piano per governare, questo è il titolo di prima pagina di Repubblica. Corriere della Sera invece, la sfida di Grillo, a noi il Premier. E poi anche le vicende giudiziarie. Per il Fatto Quotidiano, Berlusconi comprava senatori, grandi intese con uno così. Il Giornale invece, la vendetta dei PM trombati. La Stampa, Grillo disgelo con il Colle. Il Messaggero sul Papa, invece Ratzinger se ne va a chiesa senza Papa, che così apre anche Avvenire. Il Pellegrino obbediente, o il Secolo XIX, addio, sono solo un pellegrino. L'Unità invece si torna sulla politica, Bersani out sul governo, mentre Libero Monti l'anti-italiano. Malgrado la sconfitta, il Premier continua a tramare, invoca l'intervento dell'Unione Europea contro PDL e Movimento 5 Stelle. Questo è il titolo di apertura di Libero. Prima però è venerdì, ma il nostro mantra anche su Twitter è diventato un hashtag: mani sul volante, lo dobbiamo mantenere, perché guardate che ci sono delle notizie, una pubblicata dal Fatto Quotidiano, che ci fa tenere le mani ben salde sul volante. Ed è questo, scrive Carlo Tecce a pagina 11, 30 neoassunti alla Camera. Ultimo regalino di Fini e Company. Una modifica delle norme interne sarà discussa martedì prossimo. L'obiettivo è sistemare in extremis i portaborse. Quando pure l'aria condizionata di Montecitorio si faceva irrespirabile per quel vento implacabile contro la casta, il solerte ufficio di presidenza emanava comunicati a raffica: risparmiamo di qua, tagliuzziamo di là. Così scrive Carlo Tecce, e sciorinava piani triennali la Camera, ha cassato 150 milioni di euro di un colpo, ora che mezza casta è rimasta a casa prima di consegnare il testimone al medesimo ufficio di presidenza diretto da Gianfranco Fini con rappresentanti di Lega, PDL, UDC, DV, PD, deputati di agglomerati sciolti, prepara una succosa delibera per l'ultima riunione che si terrà il 5 marzo. 30 assunti a tempo indeterminato, di un colpo, ancora. I contratti non cadono per sbaglio, vanno a proteggere i collaboratori, fidati assistenti e segretari che hanno lavorato per i 18 componenti dell'ufficio di presidenza. Dunque questo scrive Carlo Tecce, cioè si assumono all'ultimo giorno dall'ufficio di presidenza i collaboratori dell'ufficio di presidenza a tempo indeterminato. Ci sono a disposizione 30 posti ancora da spartire, ma che mettono tutti d'accordo, tanto che i questori, cioè i deputati che tengono i conti, che amministrano la Camera, non sono riusciti a controllare l'informazione riservata e una fonte l'ha spifferata al Fatto Quotidiano. I fortunati 30 hanno seguito un percorso diverso, a chiamata. Siccome il tempo per i rispettivi referenti politici è finito, la chiamata va resa infinita, con un contratto a tempo indeterminato. Il costo 3 milioni di euro l'anno, pagati da chi? Qua non c'è la domanda sul Fatto Quotidiano, ma lo sapete benissimo, cari ascoltatori, chi paga tutto questo? I contribuenti italiani. Noi, dico noi perché una volta dico voi, dicendo voi per teatralizzare, e uno mi ha scritto, ma perché voi? Lei non paga le tasse? Sì, certo, anch'io, voi, noi, tutti insieme, tutti italiani, paghiamo questo. Vabbè, intanto, cari ascoltatori, avete sentito anche nel giornale radio, sono usciti è uscita la classifica annuale consueta dei redditi dei parlamentari. Vi potete sbizzarrire se vi interessa sapere quanto guadagna uno, quanto guadagna l'altro. Il più ricco, manco a dirlo, è Silvio Berlusconi, 35.439.981 euro dichiarati. Poi al secondo posto Amato Berardi, 3.409.000 e 999, non è riuscito ad arrivare con quell'1 euro a 3.410.000. Poi Antonio Angelucci, 1.992.264, Giulia Bongiorno, che è anche un affermato avvocato, 1.930.000, Maurizio Leo, 1.827.000. Vabbè, ci sono le classifiche dappertutto, quello che anche volete sapere, le macchine, le case, la cosa, gli elementi però importanti da tener conto di queste classifiche sono due. Il primo, che nessuno, praticamente c'è una fuga dai bot, no? Come si diceva prima anche alle 6.30, una fuga dai bot, nessuno che investe più in titoli di Stato, da parte dei parlamentari, nessuno, cioè c'è un calo drastico di investimenti in bot, case, mattone, terreni, investimenti finanziari, ma i bot no, insomma questo è un bel segnale di fiducia nei titoli di Stato da parte dei nostri parlamentari. E poi l'altro elemento è che il reddito medio, quindi facendo la media di tutti, è sui 221.000, ecco, questo dato l'ho letto dalla Stampa, Francesca Schianchi, trovate a pagina 8, ma ovunque trovate una paginata dedicata a queste classifiche. C'è chi ha comprato anche le case, c'è chi come i deputati Leo e Ippolito Vitale hanno comprato casa in Kenya, c'è chi come la Mussolini, Piero Martini e Eugenio Mazzarella hanno comprato casa a Roma, Antonio Di Pietro ha comprato casa a Montenero di Bisaccia, quindi a questo punto non, un'altra casa a Montenero di Bisaccia. Chi a Londra come Marilena Parenti, questo leggo da un'infografica del giornale a pagina 13, Gianfranco Miccichè ha comprato a Cefalù in Sicilia, Maria Rosaria Rossi a Santa Marinella, Fabio Gava a Ostuni, questi sono gli immobili acquistati nell'ultimo anno. Il più povero è questo deputato Pietro Vatinno, definito anche da qualche giornale, dal Corriere della Sera, l'ufologo, cioè colui che crede, era diventato famoso perché credeva agli alieni, o non è che credesse agli alieni, ma insomma era diventato famoso per questa notizia di cronaca, che dichiara 16.000 più o meno euro, ecco, quello che dichiara meno di tutti, no, 19.558 lordi. Vabbè, Ultima notizia prima della pubblicità, sempre se volete da Mani sul Volante, Giuseppe Guastella racconta a pagina 33 la disavventura, ricordate, di Stefano Galli, ex capogruppo della Lega alla Regione Lombardia, quello che aveva fatto pagare il banchetto di nozze rimborsato alla Regione Lombardia di sua figlia, poi dopo però ha restituito i soldi, poi si è scoperto che aveva dato anche una consulenza a suo genero, il genero operaio. E si era ipotizzato che non avesse questo genero operaio molti titoli per una consulenza alla Regione Lombardia. Ora c'è uno sviluppo: consulenza al genero operaio, sigilli alle case del leghista. Attenzione, gli hanno pignorato la casa, altro che valutazione dell'attività legislativa attinente ai rapporti tra regione ed enti locali. Per giustificare l'altisonante consulenza da 10.000 euro al mese per il Consiglio regionale della Lombardia, il genero del capogruppo leghista uscente non ha trovato di meglio che dire di aver fatto un banalissimo volantinaggio per la Lega. Cioè, capito? Questo è stato quello che ha referenze, volantinaggio per la Lega. Bravo, una bella consulenza da 10.000 euro al mese. E per il suocero anche volantinaggio per il suocero tra un turno e l'altro nella fabbrica dove imbottiglia acqua minerale. Ecco, questo è un operaio che fa il suo lavoro, onesto, ma queste credenziali gli sono valse dal suocero una consulenza di 10.000 euro al mese alla Regione Lombardia, ovviamente come sempre soldi nostri. Una truffa ai danni del Pirellone, secondo la Procura di Milano, che ha ottenuto così il sequestro di due abitazioni del politico e una del genero, oltre che dei loro conti in banca. E dunque, insomma, lo sviluppo è questo, riguarda la vicenda sempre Stefano Galli, ex capogruppo della Lega, che, come ricorda il Corriere, con Giuseppe Guastella già aveva fatto appunto rimborsare il banchetto del matrimonio della figlia, che è andata in sposa a Corrado Paroli, appunto, che fa l'operaio a 1.200-1.500 euro al mese e che era anche però consulente a 10.000 euro al mese della Regione Lombardia. Evviva, andiamo alla pubblicità del meteo e poi ci rituffiamo dall'intervista di Bersani che propone il cosa farà il nuovo governo, la prima volta che parla Repubblica, alla reazione di Renzi che pare pronto, secondo alcuni giornali, a dire se fanno il mio nome come candidato premier io sono pronto, a Grillo che dice sono io che adesso dico il premier sia del Movimento 5 Stelle. 24 mattino. Sono le 7:34 minuti, allora eccoci qua pronti a continuare la lettura dei giornali, a dire possiamo iniziare prima di arrivare all'intervista che Pierluigi Bersani ha fatto a Repubblica. Napolitano ieri, ancora in visita allo Stato di Stato in Germania, ha tenuto a ribadire l'Italia intanto non è allo sbando, e poi anche questa idea non c'è il governo, ha detto Napolitano, l'Italia non è senza governo, l'attuale governo è in carica fino al giuramento del nuovo, e Monti rappresenterà l'Italia al Consiglio europeo di metà marzo, lo farà in continuità con la sua azione, prendendosi tutte le responsabilità, anche consultando le forze politiche uscite dalle elezioni. Insomma, un segnale, come dire, da parte di Giorgio Napolitano, da parte del capo dello Stato, di non dare l'idea di un'Italia appunto allo sbando. Queste sono le parole che ha usato lui, dicendo non è così, non vedo neanche i rischi di un contagio. Però quello che mi incuriosisce, vi voglio sottolineare, cari ascoltatori, è ciò che Angela Merkel, salutando Giorgio Napolitano, ha detto, e giustamente Marzio Breda, che al seguito di Napolitano per il Corriere della Sera, trovate a pagina 14 il suo articolo, lo sottolinea, perché guardate che questa frase di Angela Merkel si può leggere in maniera positiva, ma si può leggere anche in maniera, per carità. Sapete cosa ha detto Angela Merkel salutando Napolitano? Voi italiani avete il dono della leggerezza, della fantasia e dell'invenzione. Ce la farete. Io ho capito, va bene, sì, ce la faremo, bene l'ottimismo, ma avete capito? Avete leggerezza, fantasia e invenzione, cioè vi salvate così, perché per il resto concretezza, pragmatismo, le cose che contano, no, cioè, mi sembrava un po' anche una fotografia da paese di Pulcinella, ecco, avete leggerezza, fantasia e invenzione, come dire, no, ve la cavate in qualche modo, ecco, questo ha detto Angela Merkel nel salutare Giorgio Napolitano. E veniamo dunque all'intervista che Pierluigi Bersani ha rilasciato a Repubblica. È importante perché è la prima volta che parla in maniera ufficiale, con tante domande e risposte. Il mio piano per governare, questo è il titolo dell'intervista di Massimo Giannini. Chiamatelo come volete, governo di minoranza, di scopo, non mi interessa. Mercoledì prossimo lo proporrò in direzione, poi al capo dello Stato. Io lo chiamo un governo di cambiamento che mi assumo la responsabilità di guidare e che propone 7-8 punti qualificanti, che chiede in Parlamento la fiducia a chi ci sta. Così è l'inizio dell'intervista, chiuso nel suo ufficio, ma combattivo, scrive Massimo Giannini, anche se non nega degli errori. Dice: vuol dire che abbia sbagliato qualcosa in campagna elettorale, accetto anche questo. Ma vedo tanti dotti medici e sapienti che sdottoreggiano col senno di poi. Io non ho mai pensato che se non vinciamo la colpa è degli italiani che non ci capiscono. Neanche penso che quel che è avvenuto sia riconducibile a errori della campagna elettorale, che possono sempre esserci. Si sono fronteggiati una destra che proponeva soluzioni fiscali oniriche e Grillo che proponeva la palingenesi. Mi vuol far dire che avremmo dovuto coltivare anche noi un messaggio che si inserisse tra l'impossibile e l'irrazionale? Avremmo dovuto essere un po' meno realisti? Non sono convinto di questo. In campagna elettorale ho sempre detto che il cuore della crisi italiana nasceva da temi sociali, dall'impoverimento, dall'allargamento della forbice delle disuguaglianze. Però, insomma, dopo questa lunga analisi, ecco il cuore dell'intervista. In che modo si potrà governare? Ecco qui. Voglio ribaltare lo schema, dice Bersani. Mercoledì in direzione mi assumerò la responsabilità di formalizzare la proposta di un governo di cambiamento che segnali in modo netto il cambio di fase con 7-8 punti programmatici. Il primo tema è l'Europa. Ne ho parlato l'altro ieri con Hollande. L'austerità da sola ci porta al disastro. In sede europea tutti devono mettersi in testa che il rientro dal debito e il deficit è un tema che va spostato nel medio periodo. C'è un'altra urgenza assoluta, il lavoro. Il secondo tema è quello sociale. Il disagio è troppo forte, i comuni devono poter aprire sportelli di sostegno, bisogna sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, introdurre sistemi universalistici negli ammortizzatori sociali. Terzo tema, la democrazia. Il nuovo governo deve dimezzare il numero di parlamentari, abbattere gli stipendi a livello a quelli dei sindaci, varare leggi che regolino la vita dei partiti e non solo per i finanziamenti, che inaspriscano le norme anticorruzione e regoli finalmente i conflitti di interessi. Messa così sembra straordinario. Si facesse tutto in 6 mesi, chi degli italiani non appoggerebbe questo programma di governo? Cioè, ma come farlo? Lei si candida a presidente del Consiglio? Sì, la risposta di Bersani. Questa sarà la mia proposta a Napolitano. Quando il capo dello Stato mi chiamerà per le consultazioni, presenterò questa piattaforma come base per un governo di cambiamento. Lo chiami come vuole, governo di cambiamento, per me, poi chiamatelo di minoranza, di scopo, di maggioranza, quello che volete. La mia partita è a viso aperto, non ci sono tavoli segreti, inciuci, caminetti. E alla domanda, certo, ma Grillo dice sceglierò legge per legge cosa votare, risponde Bersani: leggendo la Costituzione, votare legge per legge non è sufficiente, perché un governo nasce con un voto di fiducia o non nasce per niente. E questo è il punto, cari italiani, che da 3 giorni vado ripetendo. Cioè, non è che si può dire appoggiamo i provvedimenti, sì, ma il primo atto è quello del voto di fiducia. Se ci si presenta alle Camere, si chiede la fiducia. O ci sono 158 voti al Senato, oppure non si accende neanche la macchina, no? E quindi è lì i voti, bisogna decidere se darli oppure no. Allora, questo Bersani a Repubblica. In realtà, per l'ennesimo giorno, Matteo Renzi è in silenzio tombale, ma di Matteo Renzi si parla sui giornali. Comincia a emergere qualcosa. Sentite, per esempio, cosa scrive Maria Teresa Meli a pagina 9 del Corriere. Renzi, sono pronto a fare il premier. Questo è il titolo. Vero, non vero? La frase è a lui attribuita. Avrebbe detto questo Renzi: vedo che alcuni giornalisti scrivono che potrei fare il premier, che potrei fare il segretario. Tutte illazioni, cavolate. La realtà dei fatti è questa. Io non mi farò mai cooptare dal partito, manco morto. Però a quel punto, se mi dicono il prossimo nostro candidato sarà Renzi, io dico no grazie. Altra cosa è se il Partito Democratico va alle consultazioni da Napolitano con una rosa dei nomi, cioè senza dire che la richiesta è quella di Bersani secca. Se tra quei nomi ci fosse anche il mio, allora ci penserei seriamente. Questo è il Renzi pensiero, che non è un'intervista, quindi potrebbe essere smentito nel momento in cui lo leggo tra un quarto d'ora da Renzi stesso. È il Renzi pensiero attribuito da Maria Teresa Meli del Corriere della Sera al sindaco di Firenze. Gli attribuisce anche questo: io non vado a Roma ai fari giochetti del partito, dove loro arrivano con le loro belle auto blu e litigano. Io preferisco rimanere a Firenze e andare in giro in bicicletta. Così Matteo Renzi. Ma anche sul Quotidiano Nazionale, l'edizione del Nord, Il Giorno, c'è l'amarezza di Renzi: tutto sbagliato fin dalle primarie. Questo anche lui, anche questo attribuito da Paola Fichera al sindaco di Firenze: è tutto sbagliato fin dai tempi delle primarie, le hanno volute ma con troppe regole, poi le hanno chiuse al secondo turno per paura che venissero a votare elettori esterni al centro-sinistra, cioè quelli di cui avevamo bisogno per vincere. Ora però bisogna guardare avanti, è un momento difficile, io non faccio lo sciacallo, questo attribuito a Renzi. Ma anche il Messaggero a pagina 9 scrive così: io l'ho detto per la verità da lunedì, l'ipotesi incarico a Renzi per formare il nuovo governo. Staremo a vedere se è un'ipotesi fattibile, cioè scrive il Corriere della Sera, il giornale che più si sbilancia, di Renzi, che sarebbe anche disponibile, se si andasse alle consultazioni, a dire tra la rosa dei nostri candidati premier c'è anche Matteo Renzi, ci penserei. In realtà Repubblica, stando alle dichiarazioni ufficiali, a Repubblica Bersani dice il candidato premier sono io. E invece il Movimento 5 Stelle dice: beh, perché non il candidato premier del Movimento 5 Stelle? Ieri, per la verità, c'è stato un disgelo, come titolo al Sole 24 Ore, pagina 11, tra Grillo e Napolitano. Sapete che in passato Grillo ha usato, come per tutti, parole molto molto dure, anche la salma l'ha definito. Napolitano ieri invece ha detto chapeau al capo dello Stato. Napolitano, che merita l'onore delle armi, ha detto Grillo, in questi anni è stato criticato per molte scelte a mio avviso sbagliate, ma ieri ho visto in Germania il mio presidente della Repubblica, un italiano che ha tenuto la schiena dritta. Ovviamente per la risposta che Napolitano ha detto esigiamo rispetto nei confronti del leader dell'SPD, che aveva definito due clown, Grillo e appunto e Berlusconi. E la sfida è questa: allora faccia di Grillo che sia un governo monocolore del Movimento 5 Stelle. Se proprio PD e PDL ci tengono alla governabilità, possono sempre votare loro la fiducia al primo governo targato Movimento 5 Stelle. Scrive per esempio sul blog del leader del Movimento Claudio Messora: questi conoscono l'arte di mettervelo in quel posto meglio di chiunque altro. Questo è l'ammonimento di Beppe Grillo ai suoi. E infatti tutti i giornali raccontano che ora i grillini, quelli eletti, non parleranno per un po'. Noi avremo ospite in realtà alle 8.30 Davide Bono, che è un esponente importante del Movimento 5 Stelle, ma è un consigliere regionale del Piemonte. Ma i candidati non parlano. Pare che lunedì si riuniranno in conclave, dico questa parola apposta ovviamente, tra virgolette. Lunedì, racconta Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, ci sarà il summit a scuola di Parlamento a Roma. È tutto un po' coperto dal segreto, ci saranno Beppe Grillo, Casaleggio, forse anche il figlio di Casaleggio, Davide, tutto lo staff di Casaleggio, però è tutto un po' avvolto dal mistero. Pare che ci sarà questa full immersion per i neodeputati e senatori del Movimento 5 Stelle per andare a scuola di come si fa l'iter di un'approvazione di una legge, come ci si comporta in commissione, tutta la procedura burocratica, che non è indifferente per comportarsi in maniera adeguata e istituzionale alle Camere. E Francesca Schianchi invece sulla Stampa, pagina 15, racconta: tutta la comunicazione sarà in mano a Grillo e ci sarà il divieto di TV agli onorevoli. Sono tutti agguerriti, giovani, gran parte laureati, tutti digiuni di pratica parlamentare, racconta Francesca Schianchi. E allora ecco, si parla lunedì dell'inizio di 60 ore di corso che dovrebbero prendere il via, una specie di corso universitario intensivo impostato da alcuni docenti dell'Università LUISS di Roma, che dovrà articolarsi su 3 macro temi: iter di approvazione delle leggi, funzionamento del governo e alcuni principi sulla redazione di testi normativi. Grande riserbo però sull'iniziativa. Come andrà a finire? non si sa. Certo, Norma Rangieri, direttore del Manifesto, oggi fa l'editoriale dal titolo Laboratorio Politico e scrive: Grillo non potrà in eterno urlare contro Bersani, lo spettacolo elettorale è finito anche per lui, replicare lo stesso copione con la battuta del giorno lo fa somigliare a certi politicanti, ma soprattutto è finito per gli eletti del movimento che vorrebbero essere utili al paese, entrare nel merito delle proposte per rendere possibili le proprie e giudicare quelle degli altri e il confronto delle aule parlamentari. Dunque un invito, come dire, a gridare meno ora e a agire di più. Dall'altra parte Berlusconi è indagato. De Gregorio, senatore, ha detto: mi ha dato 3 milioni di euro per passare dall'altra parte. Comprò De Gregorio, Berlusconi indagato. Su tutti i giornali trovate questa notizia che ha fatto infuriare il Popolo della Libertà, Berlusconi stesso, dice: mi vogliono in manette, così dice il giornale attribuito a lui. Alfano ha convocato una manifestazione di piazza contro l'accanimento della magistratura. C'è da dire che tutto nasce da dichiarazioni spontanee dallo stesso De Gregorio, che comincerà dal 28 dicembre scorso a fare appunto queste dichiarazioni. Silvio Berlusconi mi fece avere 3 milioni di euro, una sorta di finanziamento al Movimento Italiani del Mondo, che fa capo appunto al senatore, altri 2 milioni in nero invece, quindi 1 milione, poi 2 milioni in nero in contanti, in varie rate da 200-300 mila alla volta. Chi consegnava i soldi era Walter Lavitola, questa nell'ammissione, nelle dichiarazioni spontanee di Sergio De Gregorio. Ora si tratta di capire, come scrive il Corriere della Sera, se cosa ci sia di vero, se ci siano cose da provare, quanto sia invece la credine, l'astio che magari Sergio De Gregorio stia coltivando nei confronti di Silvio Berlusconi per una mancata ricandidatura. L'ipotesi, scrive il Corriere, che abbia anche parlato per una vendetta dovuta alla mancata candidatura. L'unico giornale che riesce a intervistare proprio Sergio De Gregorio è il Messaggero. Trovate l'intervista a pagina 13. Ho ammesso tutto, avevo molti debiti, ho ammesso davanti ai pubblici ministeri tutto quello che dovevo da dire, l'ho detto, ho parlato con loro e parlerò ancora con tutte le procure che riterranno di convocarmi a Napoli o in altre parti d'Italia. Poi dice De Gregorio: non provo alcun sentimento di astio e vendetta nei confronti di Berlusconi, semplicemente ho deciso che dovevo fare chiarezza sulla mia vita politica e personale. Non voglio far la figura dell'Al Capone di turno, del delinquente abituale. Era giusto che dicessi quello che avevo da dire e se questo può danneggiare qualcun altro me ne dispiace, ma non potevo fare altrimenti. Questo è l'intervista che trovate sul Messaggero a Sergio De Gregorio. Ovviamente c'è l'ira del Cavaliere, come scrive Repubblica, come scrive il giornale. Per la Stampa invece è l'incubo del Cavaliere: questo qualcuno vorrebbe vedermi in manette, così il titolo a pagina 9. Oggi tra l'altro c'è un altro processo Mediaset e pare, scrive la Stampa, che Berlusconi possa presentarsi molto agguerrito in tribunale a Milano. Per il giornale i Cavaliere contro i PM uccidono le larghe intese sulla mia pelle. Ecco, questa sarebbe l'idea, cioè stanno cercando di affossare l'idea di un governissimo per via giudiziaria. Infatti il titolo del Fatto Quotidiano è proprio questo, pone già la questione così: Berlusconi comprava i senatori, grandi intese con uno così? L'uomo che vorrebbe occupare la presidenza di Palazzo Madama è indagato per corruzione, avrebbe pagato 3 milioni di euro al senatore De Gregorio per abbandonare l'Italia dei Valori e togliere la maggioranza a Romano Prodi, e il PDL minaccia tutti in piazza. C'è anche una breve dichiarazione, intervista dello stesso Romano Prodi, Marco Marozzi, la trovate su Repubblica a pagina 9. Ora è chiaro con chi mi sono dovuto confrontare. Il complottone, Prodi aveva chiamato così quello che fin dal primo momento aveva sentito montare, una cosa nota a molti, dice ora dopo la confessione di De Gregorio. Adesso è chiaro a tutti con quali ostacoli si è dovuto confrontare il mio governo. E pensare che per 2 anni offesero Rita Levi Montalcini perché veniva a votare come senatrice a vita. Altro che governo impopolare, dice Prodi in uno scatto, insomma, di orgoglio. Oggi, se fossimo andati avanti noi, avremmo un debito pubblico al di sotto della media europea. Questa è la dichiarazione di Romano Prodi dopo questa vicenda che vede appunto indagato per corruzione Berlusconi. Noi oggi parleremo di rimborsi elettorali, perché è un modo anche per vedere da lì se cambia qualcosa. Cambierà qualcosa? Il Movimento 5 Stelle, che avrebbe diritto a 42 milioni più o meno di euro per rimborsi elettorali dopo queste elezioni, ha detto: noi rinunceremo a questo. E gli altri partiti? Oggi Maurizio Belpietro, direttore di Libero, sulla prima pagina, politici, fuori subito i nostri 159 milioni. Scrive Belpietro, i politici che hanno a cuore il paese invocano il senso di responsabilità degli altri per impedire che l'Italia scivoli sempre più in basso nella considerazione internazionale, hanno un modo per dimostrare di essere sinceri e non attaccati solo alla poltrona, rifiutare i rimborsi elettorali. È inutile che si lamentino del successo del Movimento 5 Stelle, né che maledicano Berlusconi per aver conquistato il consenso di molti elettori moderati con la promessa di restituire l'IMU. Dimostrino piuttosto di aver capito la lezione e di aver imparato che non c'entra il populismo né l'antipolitica, ma che semplicemente gli italiani sono arcistufi delle solite facce e delle consuete ruberie. Diano prova di voler cambiare strada, di essere intenzionati a rifondare il sistema, cancellando gli sprechi, rinunciando al finanziamento pubblico. Restituite i rimborsi o tornate a casa. Questo è l'editoriale di Maurizio Belpietro su Libero. Il tempo vola, vi segnalo che ci sono tanti articoli ovviamente sul Papa, non più Papa ma solo Pellegrino, così ha detto Papa Benedetto XVI nell'ultimo giorno di papato. Da ieri la sede è vacante. Ho solo tempo, perché riguarda milioni di italiani, in 20 secondi di leggere quello che parrebbe stia studiando il governo Monti. Il blocco degli stipendi nel 2014 per il pubblico impiego, anche nel 2014. Così titola il Messaggero a pagina 21, così titola il Secolo XIX, stipendi bloccati per gli statali, mentre sul Giorno c'è il Tesoro che frena, nulla di deciso, perché per carità già solo diffondere queste ipotesi di notizie può creare ovviamente malumori, i sindacati sono già sulle barricate, ma questa è la notizia che potrebbe essere confermata, si va verso il blocco degli stipendi, dell'aumento stipendi per gli statali anche per il 2014. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Eccoci, ben ritrovati alle 8:16 minuti da Alessandro Milan. Allora, tra poco, come detto, dalle 8:30 parleremo di politica, di rimborso elettorale, eccetera. Io, prima di presentare l'ospite, devo dare un aggiornamento per quel che riguarda la politica, perché avete sentito in rassegna stampa che parlavo di Matteo Renzi, che secondo il Corriere sarebbe pronto a dire: se danno anche il mio nome alle consultazioni sarei pronto a fare il premier. Pochi minuti fa vi avevo detto, magari poi Renzi smentirà nel giro di un quarto d'ora, nel giro di 5 minuti Renzi su Twitter, il sindaco di Firenze, ha twittato il seguente messaggio: ciò che volevo per l'Italia l'ho detto per le primarie, ho perso, adesso faccio il sindaco, non ci possiamo permettere neanche i rimpianti. Questo Matteo Renzi poco fa, 2 minuti fa su Twitter, e dunque questa è la posizione del sindaco di Firenze. Comunque, apriamo invece una parentesi diversa, parliamo di università e nepotismo, perché è un tema molto molto caldo. Lo facciamo con il rettore dell'Università di Genova, Giacomo De Ferrari, che saluto. Rettore, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo letto sui giornali che all'Università di Genova è stato approvato un nuovo regolamento che prevede che marito e moglie non possano fare carriera, non che non possano lavorare, non possono fare carriera nello stesso dipartimento. È più o meno così il senso del regolamento. Sì. E perché vale. Questo? Perché c'è stata la necessità di questo regolamento? Ma dunque, la necessità nasce da un problema, diciamo, intanto di legge, perché secondo la legge Gelmini, la famosa 240 approvata un anno fa, parenti e affini di professori non possono fare carriera nello stesso dipartimento, ma per una curiosità delle leggi italiane la moglie non è né parente né affine. Allora, il ridicolo era che diciamo, la cognata di un professore avrebbe dovuto fare carriera in un altro dipartimento, la moglie invece poteva stare nello stesso dipartimento, e questo, insomma, onestamente. Quindi voi avete voluto colmare questa lacuna. Sì. Però poi l'hanno accusata adesso di essere discriminatorio nei confronti del matrimonio, cioè due, allora, che stanno insieme ma non sono sposati, una coppia. Diciamo che non si può, la perfezione è impossibile, di questo sono convinto, a parte il fatto che questa procedura insieme a tante altre è stata approvata dal Senato accademico con 18 sì e 2 no, quindi insomma direi che non c'è stato grande poi c'è stata molta, molta discussione, poi sì, alla fine la conclusione è stata questa. Ma io credo che l'importante è fare le cose in modo che si possa il più possibile prevenire ogni problematica negativa. Poi certo che non si può prevenire l'impossibile, vabbè. No, ma anche perché uno, cioè, il concetto è fare carriera, non si può far carriera nello stesso dipartimento. Però lei sa meglio di me, rettore, che basta cambiare dipartimento, basta andare in una cattedra di un altro dipartimento, di un'altra università, e come, fatta la legge, trovato l'inganno, insomma. Sì, beh, io non vorrei che i parenti dei professori dovessero essere, diciamo, incarcerati o uccisi, cioè hanno diritto di fare carriera all'università come tutte le altre persone. Quello che vorremmo impedire intanto è che proprio, insomma, nello stesso ufficio, nello stesso consiglio nel quale si delibera un certo concorso siano presenti, che ne so, marito e moglie, padre e figlio, fratello. Perché capita. Io credo di sì, quindi questo almeno è la cosa più clamorosa. Poi è chiaro che se uno si trasferisce addirittura di città e poi mi dicono quelli che non erano d'accordo e magari sono molto amici di un certo professore in un altro dipartimento, di un'altra città, è lo stesso, ho capito, ma questo non mi interessa, insomma, non sto facendo la crociata contro i parenti, per carità, un'operazione di, insomma, cercare di migliorare la situazione. Però rettore, sì, avrà visto anche sul Corriere della Sera, ricordavano questo studio di questo italiano che è andato all'estero, che ha fatto uno studio incrociando i cognomi di 61.000 tra professori, sì, e ricercatori italiani, e ha trovato che 4.583 volte i cognomi sono ripetuti due volte e 1.903 volte compaiono addirittura per tre volte gli stessi cognomi. Per carità, ci possono essere anche dei casi di omonimia, però diciamo immagino che statisticamente saranno anche parenti o affini, cioè l'università e il nepotismo sono due argomenti che spesso vengono associati. Dunque io credo che sia vero che ci sia un certo nepotismo nell'università, ma non credo che sia sinceramente molto diverso da quello che avviene in tutti gli altri ambienti professionali. Parlo degli architetti, parlo degli avvocati, parlo dei commercialisti, parlo dei giornalisti, mi perdoni. Assolutamente. Ma no, certo, solo che lì c'è un concorso pubblico da superare, il giornalismo. Ma anche nell'università c'è un concorso pubblico da superare. Sì, no, ne dicono tra gli avvocati, no, uno può mettere in studio, sì, certo, c'è il concorso di Stato, ma poi uno può far lavorare il suo non so, suo figlio nello studio, ma... Per avere una cattedra lì, cioè spesso ricorrono i vincitori e sono figli di e vincono appunto. Certo, però vede, io credo che la cosa importante sia che le disposizioni siano chiare e soprattutto servano per la maieutica, perché anche se poi c'è chi sfugge perché coppie di fatto, non coppie di fatto, eccetera, però comunque il principio chiaro della nostra università, e dovrebbe essere credo generalizzato, è che, insomma, il parente per fare carriera deve farla da un'altra parte. Dopodiché io credo che il punto fondamentale sia la qualità del vincitore, perché io se vedessi al di là delle leggi e delle disposizioni il parente con una grande qualità, vince un concorso e ha una grande qualità, un'eccellenza, sì, a me non interessa che sia parente. Sì, questo si dice sempre, cioè, per carità, non è che uno deve adesso scontare la colpa di essere nipote di, figlio di, marito di o moglie di, ecco. Infatti, è che però molto spesso in Italia questo viene visto invece il viatico per un successo sicuro. Ma invece, secondo me, invece di fare la copiata dei cognomi, quel che ho letto anch'io, sì, sarebbe bello andare a cercare i vincitori di concorso molto scadenti, perché ci sono le parentele, e poi identificare chi tra quelli è parente, allora in quel caso lì sì che è divertente. L'hanno, questo anche, l'hanno accusata di mettere anche in ridicolo la storia, Antoine de Lavoisier che lavorò con la moglie, Marie Curie che lavorò col marito, hanno preso il premio Nobel, e invece lei vuol distruggere tutto questo. Sì, sì, però c'è un'altra cosa. Altri tempi, diciamo. E altre filosofie. In un paese moralista non c'è bisogno di fare una legge di questo tipo. In un paese che è veramente moralista, non c'è bisogno, cioè in un paese come gli Stati Uniti, un paese anglosassone, per esempio. Meritocratico, ecco. Questo appunto, ma sappiamo benissimo che se uno pensasse a una irregolarità, a un qualcosa, verrebbe immediatamente pubblicamente distrutto. Da noi ci sono magari professori che pensano che mettere in cattedra un allievo scadente è un grande successo, perché non ci riesce nessuno, lui ci è riuscito. Quindi noi siamo veramente al paradosso. No? Quindi noi dobbiamo stabilire delle regole che siano maieutiche anche per capire qual è la linea da seguire. Poi se qualcuno sfugge, vabbè. Capita. Le ultime due cose sono: l'hanno anche accusata di non tenere conto delle coppie omosessuali, sai che è un tema molto molto sentito adesso anche nell'opinione pubblica. C'è qualcosa che si può fare come provvedimento dell'Università di Genova anche per questo? Beh, adesso non di sicuro, però certamente quando saranno, credo che sia imminente, insomma, quando comunque in un paese nel quale siano regolarizzate le coppie di fatto, riconosciute le coppie di fatto e le coppie omosessuali, a quel punto non cambia assolutamente niente. La stessa cosa. Si estende anche a quello. Senta, rettore, io la ringrazio, Giacomo De Ferrari, rettore dell'Università di Genova. Non si riesce a stabilire un regolamento per evitare la chiamata degli amanti o delle amanti. Quello proprio sfugge a ogni possibilità. La ringrazio ovviamente, buona giornata per essere stato con noi. Come ha detto il rettore di Genova, dove è stato approvato questo regolamento, l'impossibilità di fare carriera nello stesso dipartimento per coniugi, per moglie e marito. Allora, noi tra 5 minuti ripartiremo e parleremo di questa situazione politica. Come detto poco fa, lo ribadisco per chi avesse seguito la rassegna stampa, magari si è perso la questione di Matteo Renzi, che poco fa ha twittato di fronte alle notizie di stampa che lo danno ancora come possibile persona in grado di accettare un'eventuale candidatura a premier. Ciò che volevo per l'Italia l'ho detto per le primarie. Ho perso. Adesso faccio il sindaco, non ci possiamo permettere neanche i rimpianti. Tra poco noi parleremo di politica, questo momento politico, prendendolo da un aspetto interessante per molti italiani, la questione dei rimborsi elettorali. Allora, ieri è uscita questa cifra, 159 milioni di euro che si prenderanno i partiti se la legislatura durerà 5 anni, suddivisi partito per partito. C'è un movimento, lo sappiamo, il Movimento 5 Stelle, che è l'unico movimento che dice: noi quei soldi non li prenderemo e non li vogliamo. Oggi Maurizio Belpietro sul Libero dice: cari partiti, fate tutti così, restituite, non prendete questi 159 milioni di euro, non fatelo, perché altrimenti dopo non stupitevi se la gente non capisce, se la gente vuole facce nuove, se la gente vota al Movimento 5 Stelle, visto che sono soldi che erano stati cancellati dal famoso referendum del 93. Lo faranno, non lo faranno? Noi ne parliamo tra 5 minuti anche con le vostre telefonate 800 24 00 24. Anche da qui si può capire se davvero arriva un nuovo cambiamento. 24 mattino. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Allora, c'è una bella torta, una torta da 159 milioni di euro. È la torta che i partiti nei prossimi 5 anni si potranno suddividere in base ai voti che hanno raggiunto, ovviamente, che hanno ottenuto, ed è la torta dei rimborsi elettorali. Ora, uno può vederla anche con un bicchiere mezzo pieno dal punto di vista degli italiani che cancellarono i famosi rimborsi elettorali nel referendum del 93. La torta, il bicchiere mezzo pieno, lo può vedere se pensa che qualche anno fa erano 408 i milioni da dividere, adesso sono stati un po' tagliati, sono solo, tra virgolette, 159 milioni di euro. Suddivisi come? Allora, in base ai voti, al PD andranno 45.856.000. Al Movimento 5 Stelle andrebbero, ma il Movimento 5 Stelle, sapete, è il partito che dice: noi non li prenderemo mai, 42.782.000, poi il PDL 38 milioni e così via. Oggi anche Maurizio Belpietro sul Libero scrive: cari partiti, fate come il Movimento 5 Stelle, non prendete quei soldi, non prendete quei 159 milioni, altrimenti poi non lamentatevi se la gente parla di antipolitica, se gli italiani sono arcistufi delle solite facce. Insomma, anche Maurizio Belpietro fa questo appello ai partiti. Ne vogliamo parlare con Maurizio Bianconi, buongiorno, onorevole rieletto, credo, sì. buongiorno a voi, buongiorno. Che è il tesoriere, uno dei tesorieri del Popolo della Libertà, e che quindi gongolerà, insomma, perché li attende questi 38 milioni, no? Come il... Io non gongolo niente, perché sono già in rovina, quindi non gongolo niente. Non dica che è in rovina, che adesso ne arrivano 38 milioni suddivisi in 5 anni se la legislatura... Io ho 165 dipendenti, e 120 sedi aperte, più la sede nazionale, le sedi di Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Bari, che sono un pochino più grandi. Sì. Quindi io sto smontando insieme all'amico Crimi un po' tutto, sì. Stiamo disdicendo tutte le sedi nazionali, tutte le sedi provinciali, Perché? Noi rinnoviamo i contratti a termine, contratti a progetto, qui ci aiuta molto la Fornero, quindi abbiamo un po' la coscienza più pulita, perché con la legge Fornero l'avremmo comunque fatto questo, perché il rischio di avere... Insomma, che fa? Piange un po' miseria Bianconi, no? No, dico come stanno le cose. No, come stanno le cose, però... Configuro... Però vorrei gestire, perlomeno per il 2014, perlomeno con la prima rata. Modo che poi, se dobbiamo... smettere con questa storia, la smettiamo, ma non lasciando i buffi in giro, insomma. Almeno i debiti si pagano. Allora, Maurizio Bianconi, mi faccia salutare anche Davide Bono, che è un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle alla Regione Piemonte. Buongiorno Bono. Buongiorno. Eccoci qua, lei ci spiegherà come il Movimento 5 Stelle invece rinuncia a questi soldi, già lo fate anche nelle varie regioni, eccetera, adesso anche a livello nazionale. Prima però, scusi, Bianconi, lei non condivide l'appello di Belpietro? Guardi che poi la gente... No, c'è da distinguere, dottore, c'è da distinguere. Io convengo che sia opportuno rivedere completamente la organizzazione dei partiti, non tanto il finanziamento dei partiti, ma finché i partiti hanno questa organizzazione, cioè sedi, dipendenti, eccetera, qualcuno li deve pagare. Sì. Allora, delle due l'una: o li pagano i privati con le cosiddette offerte volontarie, o le paga lo Stato. Queste sono le due alternative, o le pagano tutte e due insieme. Sì. Io diffido molto da un partito completamente privatizzato, nonostante che faccia parte di un partito di un miliardario, perché evidentemente qui vale la regola non solo chi ha più soldi, ma chi riesce a procurarsi più offerte. Sì. Per procurarsi più offerte, pensa ai sindaci, pensa ai presidenti delle province, pensa ai ministri, eccetera, cosa può succedere. Quindi se quindi dobbiamo lei conviene, cambiare completamente l'idea di partito, a me sta benissimo. Datemi il tempo di liquidarlo. Quindi datemi 2 o 3 anni per dire, e poi dopo... A me ne basta anche uno. A me basta che l'esercizio 2014, cioè questo esercizio in corso, mi sia dato una cifra minima per liquidare tutta la banca. Le arriverà la prima tranche dei 5 anni. Basterebbe la prima tranche. 38 milioni. Se mi basta la prima tranche, già ho cominciato a liquidarlo lo scorso anno, come le dici. Ma scusi, dopodiché faremo senza finanziamento e rileggeremo i partiti. Ma mi scusi, Bianconi, sono 38 milioni, vi arriveranno diviso 5, 7 milioni e rotti. 7 milioni, io ho fatto un budget preventivo di 6 milioni e mezzo. Allora vede che è tutto a posto, quindi dall'anno prossimo può liquidare tutto. Tutte le cose vanno fatte con ragionamento. Allora, Bono, ci spieghi intanto questi 42 milioni, come si possono tecnicamente, come si può rinunciare a questi 42 milioni che spetterebbero al Movimento 5 Stelle, prendendo magari spunto anche da quello che fate a livello regionale? È lo stesso modo che abbiamo fatto noi in regione. Noi abbiamo semplicemente chiamato alla presenza della Camera, e la telefonata fu alquanto bizzarra, perché appunto noi chiamavamo nel 2010 e il responsabile che ci rispose rimase ovviamente di stucco, no? Perché noi gli chiedemmo dei rimborsi elettorali, lui ci disse: ah sì, non vi preoccupate, vi arriva il malloppo, vi arrivano i soldi. Ma il malloppo, addirittura il malloppo avrebbe usato questa parola. No, non ci credo, il malloppo. E noi gli dicemmo, noi stiamo telefonando per rinunciare, lasciare lì i soldi, e non era ovviamente mai stato fatto, quindi non sapeva neanche lui come andava fatto. Poi alla fine troviamo la procedura, inviamo comunque semplicemente dei fax compilati con rinuncia. Ma quei soldi che fine hanno fatto? quei soldi ovviamente rimangono nella disponibilità dello Stato, e quindi in quel caso perché glielo chiedo? Perché ieri, quando abbiamo annunciato il tema sulla puntata, molti, ci ha scritto per esempio un sindaco di un paesino che mi spiace non ha citato il nome, dicendo: prendeteli quei soldi, dateli, che ne so, a progetti per le piccole imprese, dateli ai progetti sul territorio, cioè fate e rendete in modo trasparente, noi li prendiamo e li utilizziamo così, perché lasciarli allo Stato, sa come vanno certe cose, no? No, non condivido, nel senso, perché quelli non sono soldi nostri. Noi abbiamo addirittura detto, la chiamiamo furtiva, no? Perché nel 93 sappiamo benissimo, gli italiani si sono espressi con un referendum per eliminare il finanziamento pubblico ai partiti, che poi è stato reintrodotto surrettiziamente chiamandolo, sappiamo, rimborso elettorale. Sì. Quindi, e sappiamo che il finanziamento pubblico ai partiti ha un'origine storica, no? Negli anni 70, dopo gli scandali della Lockheed, no? Perché poi non cambia nulla in Italia, gli elicotteri che erano stati, come dire, commissionati con delle tangenti, da lì nacque poi il finanziamento pubblico ai partiti, che dissero basta gli scandali, basta i partiti che si finanziano, sì, diciamo, con le tangenti. Poi abbiamo visto che non è cambiato nulla, ci furono negli anni 70 le battaglie dei radicali, che sicuramente tutti ricordiamo, il primo tentativo di referendum. Quindi lei dice, comunque, non sono soldi nostri, non li vogliamo neanche toccare, non vogliamo sporcarci con questi soldi. E sarebbe benissimo, e sarebbe un veramente qualcosa di non coerente, soprattutto non faremo quello che i cittadini hanno chiesto. No, questo sì. Allora, io vorrei capire questo. Bianconi, lei ha di fronte qui Davide Bono al telefono, cioè una persona che rappresenta un movimento che, senza una sede fisica, senza un dipendente, senza quella struttura che costa, ha dimostrato, almeno in questa tornata elettorale, che si può fare anche politica così e si possono raccogliere voti. Allora, perché questa idea che i partiti debbano costare anche come struttura? No, la politica deve costare come struttura, per forza, questo. Quando il movimento, ma qua c'è la dimostrazione che si può fare anche senza. Non è così, cioè, non è così se vogliamo impostare seriamente la questione. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che governa ben poco, fa un'opposizione abbastanza precisa, con dei sistemi di comunicazione del tutto innovativi, dal quale cercheremo sicuramente di imparare, ma nel momento nel quale avrà ministri se li avrà sindaci se li avrà ricerche che dovrà fare, eccetera, qualcosa costa. Non è vero che non costa. È vero invece che, siccome i cittadini hanno deciso nel 93 che i soldi i partiti non li debbano avere, la scusa del rimborso elettorale, come ho già detto altre volte, fu in effetti una scusa. Faremo senza soldi, come hanno detto i cittadini. Naturalmente tutto questo ha un costo, perché diventa la democrazia diventa un pochino più approssimativa, ma va bene tutto, sì. Cioè, basta fare quello che dicono i cittadini. Lei mi dice va bene tutto, in realtà poi dice anche sì, è vero, me l'ha detto anche un'altra volta questi microfoni, sì è vero, nel 93 abbiamo fatto un po' una fregatura, sì. Cioè dopo che c'è il referendum. No, non abbiamo, perché io non c'entro. Abbiamo la politica, la politica. Sì, però vedi, dottore, nel 93 fu anche detto che il Ministero della Sanità non ci doveva essere, che il Ministero dell'Agricoltura non ci doveva essere. Certo. Faccio altri due esempi. E l'hanno chiamato politiche agricole. Allora dico. Ho capito, ma non lo riversi a noi. Non è che su questo punto e basta la politica si è ricordata di fregare il referendum. Però mi fa strano che sugli altri due punti nessuno protesti. Non dico del Movimento 5 Stelle, io dico del Partito Radicale. Il Partito Radicale ha un po' rotto i coglioni sostanzialmente, perché il Partito Radicale ha un solo momento di grande pubblicità, che è Radio Radicale. Piglia una valanga di soldi per la Radio Radicale e rompe i coglioni con finanziamento al partito che non ha. Vabbè, però adesso di prenderli quelli soldi. Però adesso non c'è qua. Il Movimento 5 Stelle mi pare che sia del tutto coerente, ha detto non li voglio e non li voglio. Sì. E fa anche un altro discorso, secondo me, abbastanza giusto. Non sono soldi nostri, vediamo allo Stato, lo Stato è responsabile. Sì. Ma i radicali, francamente, basta. Basta. sarà contento di non incrociarli più in Parlamento. Però No, io sono amico, ho avuto anche la tessera per tanto tempo, ma le ipocrisie no. Bono, la questione è questa. A parte Maurizio Belpietro che dice ai partiti Lei come lo interpreta? Maurizio Belpietro che dice: i partiti fate come il Movimento 5 Stelle, altrimenti non vuol dire che dimostrate di non aver capito nulla. Secondo lei, Davide Bono, i partiti attuali, dopo questa scoppola clamorosa presa 3 giorni fa, hanno capito, capiscono che può essere davvero l'inizio di una nuova era? Poi non so dire se è meglio o peggio, o non lo capiscono. Ma innanzitutto mi si permetta di dire solo, onorevole, che noi abbiamo già ovviamente 4 sindaci, quindi tra cui uno di una grande città come Parma. Era nostro ospite ieri, Pizzarotti. Ecco, esatto. Perfetto, infatti ho seguito, infatti, e non è che abbiamo avuto un aumento di spese o di costi da un'elezione dell'anno scorso a questa, cioè nel senso è la modalità proprio di fare politica che è diversa, e si può fare, come abbiamo detto, proprio perché noi insistiamo sulle donazioni di singoli cittadini. Tra l'altro, attenzione qua, noi non vogliamo assolutamente il modello americano, perché qualcuno potrebbe pensarlo, no? Nel senso che il modello elettorale comunque con cui ci sono i partiti, 2 partiti principali che vivono di grandi provvigioni delle lobby, delle industrie, eccetera. Noi pensiamo a piccole donazioni molto diffuse, molto distribuite, cioè il singolo euro al banchetto. Noi ad esempio adesso stiamo chiudendo i conti della contabilità nazionale, l'avete visto su Bogli Grillo, abbiamo raccolto con piccole donazioni, con un tetto anche, perché mettiamo anche un tetto, se no appunto potrebbe arrivare uno, si dà 100.000 euro sì. E poi dopo. Però Bono, questo effettivamente espone alla critica di dire, insomma, chi poi riesce ed è bravo perché la gente ci crede, dà un euro, quello che vuole, e riesce a raccimolare dei soldi, può fare politica, perché comunque un po' di struttura, che ne so, anche solo appunto se doveste avere dei ministri o se doveste avere del personale, poi è da... I ministri hanno i loro uffici. No, ma certo, ma capisce cosa vuol dire, cioè ci vogliono essere ci devono essere anche degli studi dietro, cioè un ministro magari dovrà preparare una legge, dovrà avere un consulente economico. Il ministro, infatti, noi siamo infatti per comunque un servizio pubblico, cioè nel senso il ministro comunque avrà il suo staff, assolutamente con quelli che sono, cioè non confondiamo. Perché Bianconi ride? Cosa c'è da ridere? La democrazia con il costo della politica. Non hai idea di cosa parla. Sì, beh, parla di una teoria, il che dice sa il ministro al suo staff. A parte il fatto che il cancro dell'Italia sono gli staff dei ministri, che prima si pulisce da quel tipo di burocrazia lì, e prima l'Italia, al di là dei partiti che sono facili, il ministro non può stare da solo, sono facili bersaglio, ma in realtà il vero male dell'Italia è tutta quella burocrazia nascosta che si aggira occhiuta nei ministeri e si fa i cazzacci suoi e i suoi stipendi. Questa è la verità vera. Dopodiché la politica si piega a quel tipo di burocrazia. Lo staff del ministro, per un partito che ha governi, che ha forti opposizioni, è la decima parte di quello che ha bisogno qualcuno per governare. Capisco che un movimento che si muove in rete, che non ha bisogno di sedi, risparmi molti soldi, questo ma però non pensi che non abbia bisogno poi di una struttura? No, ma infatti. Allora, Bono, ripartiamo. Un minuto, ci sono le informazioni sul traffico, ripartiamo da qui. Appunto. Bianconi dice: non vi rendete conto che in realtà poi i vostri costi, nel momento in cui andate a occupare comunque delle posizioni di responsabilità, aumenteranno necessariamente. Eccoci qua, siamo con Maurizio Bianconi, rieletto alla Camera, Popolo della Libertà, uno dei tesorieri del partito, e Davide Bono, consigliere regionale in Piemonte del Movimento 5 Stelle. Bono, che voleva replicare alla questione, insomma, dei costi da gestire per voi che arriveranno? Sì, ma innanzitutto appunto che, dicevo, secondo me si fa una confusione abbastanza grave, nel senso tra il costo della democrazia e il costo del partito, sono due cose diversissime, cioè ribadisco, noi in regione abbiamo dei costi fissi, tutti i gruppi consigliari, che sono il personale che ti aiuta a fare le leggi, le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni, idem per una forza che sia l'opposizione o in maggioranza a Roma, da un'altra parte a Torino. Dall'altra parte ci sono i costi dei partiti, quindi il costo del partito è un costo che noi vogliamo assolutamente comprimere, e lo stiamo facendo, perché non è possibile che ci sia una continua campagna elettorale dei partiti per mantenersi il consenso con, ad esempio, che ne so, infestando la città di manifesti elettorali, oppure aprendo decine di sedi, che poi bisogna vedere in effetti come vengono gestite, perché noi chiediamo anche una trasparenza, cioè veramente poter capire come vengono gestiti i fondi dei partiti, cosa che finora non è stata. Abbiamo avuto un piccolo spaccato vedendo cosa faceva la Lega Nord, no? Quindi sono due cose veramente diverse, e noi crediamo che il consenso si ottenga appunto non gettando soldi sul territorio, aprendo sedi, sì, eccetera, ma con le cioè cose non, fatte, non quindi... creando la macchina da soldi della politica, che è quella che bene o male è la percezione. Perfetto. Che gli italiani noi hanno. La riattiviamo, noi la riattiviamo ogni volta che probabilmente c'è un'elezione, quindi però gli ultimi due mesi, un mese, sì, e mezzo, due, sì. Serve solo proprio a fare... E poi, no, ma poi lui dice, voi non prendete dei soldi che sono rimborsi elettorali che gli italiani avevano cancellato, che sono stati rimessi dalla finestra, usciti dalla porta, fatti rientrare dalla finestra, e che voi, certo, dite che questi soldi noi non li percepiamo con qualcosa di sporco. Le dico anche questo, io sono convinto che comunque lo Stato debba garantire, come fa ad esempio con gli spazi elettorali nelle radio, in televisione o quant'altro, gratuiti l'ultimo mese di ogni campagna elettorale, quindi delle sedi gratuite, quindi le sedi, non so, comunali, circoscrizionali, in modo da comprimere veramente i costi al minimo delle forze allora, politiche. Fatemi sentire due ascoltatori. Francesco da Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che pensa? Io credo che sostanzialmente il problema non è tanto i finanziamenti, che forse una ragione storica l'avevano anche. Il problema è che i partiti sono anni che non si danno una regolamentazione, sono delle associazioni non riconosciute, questi soldi non si sa dove vanno a finire. Oggi stabiliscono, grazie a Grillo, perché poi la politica non regala niente al popolo, sono costretti oggi a ridiscutere il finanziamento, semplicemente perché sanno che se non lo fanno, la prossima volta Grillo prende il 40%, quindi diciamo, dice, chi ha votato Grillo come me sostanzialmente ha già raggiunto un risultato. Di far ridiscutere un po' tutto il sistema, insomma, di costringerli a venire a discutere sul vostro terreno. Cioè loro devono scendere a compromessi con chi... Cioè Grillo non riuscirebbe a governare un'Italia in un paese in cui le caste, la magistratura, sono tutte fatte di figlie di un sistema politico strutturato, però lui costringerà chi oggi ha il potere, che non è chi governa, chi ha il potere non è sempre associato a chi governa, a scendere a patti nel senso a discutere di questo. No, ma è chiaro, Francesco, mi faccio andare anche a Roma, se no non riesco a dare anche la parola a Stefano, dalla provincia di Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io condivido completamente l'intervento del signore di Pescara. Sì, e diciamo l'intenzione con cui io ho votato Grillo è stata la stessa sua, cioè di mettere i rappresentanti politici di fronte a una realtà, insomma, diciamo, della parte più o meno pulita del paese, che si è stufata, insomma, di questi maghi. Insomma, richiamarli alle responsabilità. Sì, no, perché parliamoci chiaro, insomma, cioè tutta questa situazione è colpa di una complicità di una larga fetta della popolazione italiana, compresi mass media, tutti, cioè un buon 30-40% di persone che hanno avuto vantaggi in questo sistema. È inutile che ce lo ascoltiamo. No, ma è chiaro, qua Maurizio Bianconi, la questione che richiamano anche gli ascoltatori, anche Davide Bono, dice, ma io ritorno su questa cosa, forse non vi siete resi conto, o la vecchia politica, il vecchio modo di fare politica, non si è reso conto di anche il messaggio rivoluzionario, se vuole, che c'è nel voto che c'è stato due giorni fa. Questa idea Dottor Milan, io rimango un uomo di campagna, anche se il destino mi ha portato nella capitale, che la gente sia molto insofferente ed insoddisfatta per la politica, per tutto quello che è successo, eccetera, e questo non è chi non gira. Io per la campagna elettorale mi sono fatto 14.700 chilometri, ho pagato ieri la macchina, quindi lo so, quindi io giro sempre, giro anche in campagna elettorale, nonostante che siamo nominati, lo so questo. Sicuramente il rimedio non è questo qui. Il rimedio è un altro, è l'efficienza del sistema. A me fa un po' ridere quello che dice Bono, dice ci deve pensare lo Stato, i partiti non si devono riunire, ma l'articolo 49 della Costituzione non l'ho scritto io, l'ho letto io. Sì. Cioè può pensare lui che ci sia una democrazia senza i partiti o i partiti come piacciono a lui. Una cosa giusta invece l'ha detta molto, molto giusta, ma l'hanno detto i due ascoltatori. Non è più ammissibile che il partito sia un'associazione privata, ma questo lo prevedeva la Costituzione, aveva i suoi motivi storici allora, c'era stato il Partito Nazionale Fascista e volevano i partiti veramente liberi, ma oggi mi sembra che quel tempo sia finito. Dare personalità giuridica ai partiti e dargli democrazia interna potrebbe essere la soluzione, ma anche dargli autonomia finanziaria. Allora facciamo così, perché non c'è tempo, se no mi scusi, sì, finisco, no. Se no a forza di populismi, anch'io sono populista, voglio dire, ma ecco, anch'io sono populista, quindi non è che lo critico, ma a forza di discorsi facili, sì, dopo si va, non basta mai. Ma chissà, ma a volte la semplicità invece magari aiuta, cioè è populismo dire gli italiani hanno cancellato un referendum con referendum e quindi non prendete di quei soldi. Comunque io mi devo fermare qui, Maurizio Biancone e Davide Bono, tra poco Simone Spezia parla ancora dei grillini e gli elettori di Grillo, che vogliono. Noi ci ritroviamo lunedì alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.